La vita in un film di Franco D'Assisi. In questi mesi, vagando nella solitudine della casa, gli anni di comprensioni e malumori della nostra convivenza sono scomparsi. I ricordi che ho di te sono i ricordi di te bambina, cucciolo vulnerabile e smarrito. Leggendo queste righe ti chiederei più volte dove vuole andare. Non temere, non voglio rattristarti. Voglio solo parlarti di me e della nostra storia. C'è una cosa della mia e della tua vita che non posso più nasconderti. Nonna, dov'è la mamma? È partita, tesoro. E dove è andata? A fare un lungo viaggio fino in cielo. Buonasera da Franco D'Assisi, questa è La vita in un film, l'appuntamento quotidiano con Radio 24 per parlare di cinema in un altro modo, per cercare di scoprire dentro i film che hanno fatto la storia del cinema qualcosa che appartiene alla nostra vita di tutti i giorni. Questa sera vogliamo affrontare un tema un po' particolare qui alla vita in un film. Parleremo un po' di famiglia, un po' di ritorno alle radici, un po' del concetto di Heimat, tanto caro ai tedeschi, quel termine che racchiude patria, casa, luogo del cuore. Di tutto questo vogliamo parlare riassumendolo in una di quelle figure che al cinema hanno spesso rappresentato il porto sicuro nel quale protagonisti dispersi si rifugiano e spesso ritornano per non naufragare. Siamo riusciti a incarnare questa figura in un'attrice che ha interpretato spesso il ruolo della donna, spesso anche quello della nonna, capobranco comunque di una famiglia, punto di riferimento per figli e nipoti, dispensatrice di consigli e di saggezza. Quell'attrice è Virna Lisi, l'avete sentita nella clip che vi abbiamo fatto ascoltare in apertura, tratta dal film Va dove ti porta il cuore, e quindi Virna Lisi è la nostra ospite di questa puntata della vita in un film. E a voi ascoltatori chiediamo, come sempre, di partecipare all'800 24 00 24, che è il nostro numero di telefono per stare con noi in questa mezz'ora di cinema e di vita qui su Radio 24. Vi chiediamo quale personaggio visto al cinema vi ha raccontato una figura analoga nella vostra vita, in quale porto sicuro, in quale luogo del cuore vi siete rifugiati o vi siete rivisti appunto al cinema, quale personaggio carismatico vi ha ricordato un approdo che magari nella vostra vita avete avuto o avete sognato di avere. 800 24 00 24 è il nostro numero di telefono qui alla vita in un film. Vi ricordo che c'è anche il numero per gli sms 349 238 6666, e vi ricordo anche che qui ci sono un bel po' di biglietti per il cinema che vi aspettano i primi tre ascoltatori che interverranno a questa nostra trasmissione. Virna Lisi, quindi, per una volta non tanto un film quanto un personaggio, un grande personaggio, una grande attrice della storia del cinema italiano e internazionale, a incarnare il tema della puntata, il porto sicuro, il ritorno alla famiglia, il luogo del cuore, che può essere un luogo fisico ma anche una persona, un'anima, come quella incarnata da Virna Lisi in molti film. Abbiamo sentito Va dove ti porta il cuore, ma parleremo anche del più bel giorno della mia vita o di Buon Natale e Buon Anno, tra l'altro tre film che hanno la firma Comencini, due Cristina, una Luigi, ma comunque Virna Lisi evidentemente proprio con questa famiglia straordinaria di registi ha dato il meglio di sé. 800 24 00 24 quindi il numero di telefono qui della nostra emittente per intervenire alla vita in un film e come dire, portarsi a casa anche qualche bella serata, parecchie belle serate di cinema durante il prossimo autunno. Noi, dicevamo, abbiamo qui ospite Virna Lisi e come abbiamo detto molto spesso in molti suoi film, Virna Lisi ha interpretato un po' la famiglia come rifugio. Sentiamola. Sì, beh, io credo che la famiglia sia un po' veramente la tana per tutti, almeno per me lo è stato, era il rifugio, era la tana, come l'animale che si perde e poi va a cercare la sua tana. La famiglia è la base della nostra esistenza, da lì partono le nostre radici, da lì parte tutto, da lì parte l'educazione che ci danno i nostri genitori, quella che noi diamo ai figli e via dicendo. Insomma, la famiglia è la cosa per me più importante che esista. La famiglia quindi come porto, come rifugio, dice Virna Lisi. 800 24 00 24 per partecipare alla vita in un film, raccontarci quale personaggio carismatico, quale grande nonna per esempio, quale grande mamma avete rivisto in un film della storia del cinema che possa avere rappresentato un po' un pezzo di voi, un pezzo del vostro percorso e magari una figura appunto materna nella quale avete rivisto qualcosa di quello che vi è capitato davvero. davvero. Va dove ti porta il cuore. Torniamo a questo film, un film firmato, dicevamo, da Cristina Comencini. Era il 1996, alle spalle c'era uno straordinario successo editoriale, il libro di Susanna Tamaro, la storia di tre donne: Olga, la nonna, appunto interpretata da, da Virna Lisi, Ilaria la figlia e Marta la nipote. Tre donne quindi, ma alla fine scopriremo che è proprio Olga un po' il depositario delle verità di casa. Olga che fa crescere la piccola nipote Marta dopo che sua madre è morta in un incidente, Olga che tiene un segreto straordinario. Sentiamola in questo passaggio del film nel quale parla proprio con la figlia. Sentiamo. Perché sei sempre così angosciata, Ilaria? Mi sento sempre com'è. Non so come dire, come se avessi un morto dentro. Una morsa che mi tiene stretto il cuore. Cos'è successo quando ero piccola? Perché mi sento così? Ne abbiamo già parlato quando eri in analisi con quel farabutto. Non è successo niente, ero solo molto stanca. Stanca di cosa? Se non facevi niente tutto il giorno. Ho avuto un periodo difficile. Io non ho potuto occuparmi di te come avrei voluto, ma questo è durato poco tempo. Io non ho mai trascurato Marta. Neppure quando stavo nella crisi più nera. Si vede che tu sei una madre migliore di me. Non lo ammetterai mai, eh? Che il tuo matrimonio è stata una tragedia. Che hai sbagliato, tu come me, come tanti. Sempre perfetta devi sembrare. Farei qualsiasi cosa per non vederti in questo stato. Vuoi veramente aiutarmi? Allora smettila di mentire, di farla buona. Esci fuori al naturale, mamma, fa bene alla salute. Avete sentito questo dialogo molto serrato, Galatea Ranzi e Virna Lisi, protagoniste nel Va dove ti porta il cuore. Noi ricordiamo il nostro numero di telefono 800 24 00 24, ci sono qui un bel po' di biglietti per tante serate al cinema che vi aspettano. Intervenendo alla vita in un film e raccontandoci poi in quale film della storia del cinema avete riconosciuto una figura carismatica, un porto sicuro come lo abbiamo chiamato, un luogo del cuore o comunque un posto dove tornare, dove ritrovare se stessi, che fosse appunto magari raffigurato da un'immagine, da un personaggio come i tanti interpretati da Virna Lisi nella sua carriera di questo tipo. Virna Lisi ne ha interpretati tanti anche in televisione, anzi negli ultimi anni ha lavorato tantissimo in televisione Virna Lisi, con fiction come A casa di Anna, Piccolo mondo antico, chi può dimenticare per esempio questo film proprio con personaggi di questo tipo, Cristallo di Rocca, Caterina e le sue figlie, che forse è quello che più le ha dato un grande successo anche in questa parte della sua carriera. Dicevamo quindi Virna Lisi che ha interpretato spesso il ruolo della donna che è un po' il centro della famiglia, che con la sua saggezza ispira e consiglia agli altri. Quanto c'è di Virna Lisi come persona in questi personaggi e quanto invece ha imparato ad interpretarli? Sentiamo. Dire, sono ruoli che mi assomigliano abbastanza, non so, come il film per esempio della Comencini che si chiamava Il più bel giorno della mia vita. Ecco, Il più bel giorno della mia vita. Ecco, questa matriarca che stava lì, che questi figli che arrivavano tutti con i loro problemi, con le loro cose, un film molto moderno, molto, molto attuale, devo dire. E sentirsi, forse quando sei arrivata, adesso magari io dico che forse è un fatto di età, qualche volta no, perché io vedo intorno a me anche tante persone che hanno la mia età alle quali non si appoggia nessuno, forse perché non sanno dare niente, non lo so io. Poi ci sono quei personaggi, quelle persone che umanamente danno nella vita e hanno dato tanto e seguitano a dare, e forse quelle sono quelle alle quali poi i figli, i nipoti, i mariti eccetera, così si appoggiano. Io sono una che forse ha dato molto nella vita, ha dato molto alla sua famiglia, perché veramente io ho dato me stessa alla mia famiglia, che è stata la prima cosa, la cosa basilare della mia vita. E allora oggi mi sento un po', ecco, quella mamma, quella nonna che alla quale si rivolgono e alla quale danno affetto, perché io ne ho dato tanto. Io dico che nella vita quando dai qualche volta si riceve anche. La vita in un film. Basta che sto lontano da te e dalla tua casa sto benissimo. Claudio, smettila. E lascialo parlare. Ma tu perché ce l'hai con me? Perché sei stata tutta la vita a dirci di non dire niente a mamma e papà, perché sennò poverini non avrebbero retto il colpo. Cosa non dovevate dire? Non sapevo che un uomo e una donna possano perderci uno nell'altro fino in fondo senza vergognarsi. Ancora Virnalisi, Il più bel giorno della mia vita. Cristina Comencini, anno 2002. Virnalisi nei panni di Irene, che vive nella vecchia villa in cui ha trascorso la vita, e ciò che più le dispiace è che i suoi tre figli non provino per quell'abitazione, per quel luogo del cuore, come l'abbiamo ribattezzato, lo stesso affetto, lo stesso attaccamento che prova lei. 800 24 00 24. Quali sono i personaggi carismatici, i porti sicuri, gli approdi, anche familiari, che avete riconosciuto come vostri nel cinema? Noi cominciamo ad ascoltare, a sentire i nostri ascoltatori. Jacopo da Torino, buonasera Jacopo. Buonasera, eccomi qua in diretta. Prego. Ecco. Poi emozionato, fa niente, siamo fra amici, non c'è problema. Allora Jacopo, dicevamo, no? Queste figure carismatiche, questi patriarchi o matriarche della storia del cinema, cosa ha visto, a cosa si è affezionato nella sua storia di spettatore? Diciamo che io volevo parlare del patriarca, diciamo, per eccellenza del cinema, ovvero del padrino di Francis Ford Coppola. Vabbè, assolutamente centrato. Beh, più patriarca di così, diciamo, è sicuramente una figura e carismatica, questo non c'è assolutamente dubbio, lo era anche l'attore che lo interpretò, e centrale, cioè che fa da collante, da trade union, no? E sono quei personaggi che fino a quando sono in vita tengono insieme tutto, in un certo senso, no? Esatto, e il discorso poi si può appunto ricollegare alla distonia che c'è in realtà all'interno della famiglia tra i valori di una famiglia, diciamo, normale, e quella in realtà di una famiglia poi mafiosa, e quindi del business. No, assolutamente, tra l'altro l'abbiamo detto anche ieri parlando di padri, il fatto che per esempio il padre di Tom Hanks in Era mio padre è un padre che fa il killer sostanzialmente, ma che protegge il figlio come uno dei migliori padri che si possano vedere. Questa divisione di ruoli, sicuramente forse un po' cinica in un certo senso, ma sicuramente molto umana per certi versi. Grazie a Jacopo da Torino. All'800 24 00 24 ci sono 5 serate di grande cinema con il cofanetto Wazoo per Jacopo, ma ci sono anche altri ascoltatori già in linea. Claudia da Genova, buonasera Claudia. Ciao, buonasera. Buonasera. Allora, senti, io avrei individuato con Animo Retti Caos Calmo. Ti sembrerà un po' strano, però l'uomo o la donna in carriera che lavorano per vivere, vivono per lavorare. E di fronte poi a una grande tragedia si rendono conto che poi, come diceva anche Virnalisi, la famiglia è tutto, è tanto, per lui la famiglia era sua figlia. Certamente, beh, questo era sua figlia, e però qui è un'immagine di un uomo che immola se stesso, se vogliamo, il suo modo di vivere per stare vicino all'unico affetto che le è rimasto, che gli è rimasto. Niente. No, assolutamente, no, non è poco, ma voglio dire che il ritorno in questo caso è la famiglia che va, no, tra cammello e montagna, in questo caso è la montagna che si muove, se vogliamo, rispetto a quello che invece succede per esempio nei personaggi di Virnalisi dove tutti prima o poi sentono il bisogno di confrontarsi, anche quelli più ribelli, quelli che hanno rotto con la famiglia, che hanno superato, diciamo, ritengono di aver superato determinati steccati, ma poi alla fine finiscono tutti lì, ecco. Questo era un po' il tema. Io ti dico questo perché penso che sia molto attuale, no? Molto attuale il fatto di una donna, di un uomo che molto fuori da quello che è il nucleo familiare, diciamo, per eccellenza. Certamente. E quindi questa cosa, questo suo modo poi di comportarsi con la bimba, chiaramente siamo fuori dai canoni del film che tu prospettavi. Però mi tocca molto. È una visione sicuramente molto particolare, molto interessante. Poi un film, a mio modo di vedere, straordinario. Nanni Moretti, ho come la sensazione negli ultimi tempi che sia più bravo come attore, in un certo senso. Grazie a Claudia da Genova. 2 biglietti per 2 serate di grande cinema nel prossimo autunno anche per lei. Nel frattempo Giovanni, sempre da Genova, ci sottolinea la prestazione di Clint Eastwood, la figura di Clint Eastwood nei ponti di Madison County, un film straordinario. Beh, qui forse più un'intensa storia d'amore, un'amicizia che diventa amore a un certo punto fra due persone non più giovanissime, che sì, si attraggono, sono sicuramente carismatiche una rispetto all'altra. Anche questo è un esempio, ma ne abbiamo anche degli altri. Ci siamo segnati alcuni film, diciamo, che possono avere un po' queste figure carismatiche, questi approdi sicuri. Pensiamo alla Casa degli Spiriti di Billy August, tratto dal libro di Isabel Allende. Pensiamo a tutta la straordinaria saga di Heimat di Edgar Wright. Ore e ore e ore per raccontare l'evolversi di una famiglia, ma anche il luogo del cuore, appunto questa Schabach, questo villaggio della Germania rurale che cambia negli anni ma in realtà non cambia mai, diventa una sorta di calamita per tutti i protagonisti di questa saga. E anche un altro film molto divertente, che racconta di un incontro in età molto avanzata, ma anche qui con personaggi molto carismatici, che è Pomodori verdi fritti alla fermata del treno. Abbiamo preparato una clip. Credo che non potrò tornare a casa per un bel po' e la casa mi manca. Mancano delle cose strane quando uno è lontano. Oh, che cosa non darei per un piatto di pomodori verdi fritti come quelli che facevamo al caffè. Mamma! Ah, siete qua! Ah, era ora, Iggy. Indovina chi è arrivata. Chi? Ruth. Starà qui con noi tutta l'estate. Ruth! Ti ricordi della mia figlia più piccola? Certo che mi ricordo. Io me ne vado quando dico io. Come puoi far soffrire così tanto tua madre, si può sapere? Io non faccio proprio niente a mia madre. Oh no? No! Perché credi che io sia venuta qui? Tua madre era così preoccupata che mi ha chiesto di venire per tentare di farti ragionare, ma tu pensi solo a te stessa. Gigi, tu non sei la sola ad aver perso Babbo. Siamo tutti disperati. Rivoltarsi contro la famiglia non serve a nessuno. Che cosa c'entra lui in tutto questo? A me sembra che ce l'hai tu il problema di dimenticare mio fratello. 18:24 minuti, 800-24-00-24, era Pomodori verdi fritti alla fermata del treno. C'è in linea un altro ascoltatore, anzi un'ascoltatrice, Lucia dalla provincia di Brescia. Buonasera Lucia. Buonasera a lei e complimenti per la deliziosa trasmissione. Beh, che ci fa emozionare. No, non faccia così. Mario... Il collettivo è molto legato ai film adesso e anche per me è così, e tante sensazioni non si riescono a esplicare bene, ma si riconoscono molto nei film. E allora vado velocissima, La neve nel cuore, il personaggio di Diane Keaton, un'attrice che mi piace tantissimo perché ha avuto tutta un'evoluzione d'attrice straordinaria, e questa madre ammalata che passa l'ultimo Natale con i suoi figli, che tornano nella tipica casa americana per passare le vacanze, e pur nella malattia ristabilisce gli equilibri, sistema le cose e dà sempre tanto amore. E anche la morte, perché poi l'anno successivo si rivede che lei manca, è vissuta come una parte della vita che continua. Certo, no, è un film da riscoprire, tra l'altro abbastanza recente, del 2005, è un film che ha avuto il suo bel passaggio al cinema, ma magari avrebbe meritato un po' più di attenzione. Sì, sì. Sotto Natale noi non abbiamo, cioè abbiamo solo due film in pratica. È così. Ma va bene così. Ma va bene così, però grazie al cielo ci sono i DVD, come dire, quindi si può recuperare Neve nel cuore, tra l'altro con Diane Keaton che capitana un cast di grandi attori teatrali americani e non solo. Ed è una sorta di, ancora una volta, di ritorno natalizio, appunto, alla... ne abbiamo fatto anche una puntata sui parenti serpenti. In questo caso non sono tanto serpenti, anche se c'è qualcuno anche che va da quelle parti, e però certo c'è questo senso forte di attaccamento di questa figura carismatica che è un po' una Virna Lisi d'oltreoceano. Grazie anche a Lucia, biglietti per il cinema anche per Lucia, 800-24-00-24. Noi torniamo da Virna Lisi, parlando questa volta appunto del più bel giorno della mia vita, tornando a parlarne, perché in questo film c'è davvero un universo femminile preponderante, le donne hanno un ruolo centrale. Sentiamo Virna Lisi. Nelle famiglie chi veramente manda avanti una famiglia è sempre la donna, guardi, difficilmente l'uomo, non lo so, io ho visto mia madre e mio padre lavorava tutto il giorno, mia madre chi ha cresciuto me, mio fratello e mia sorella è stata lei, mia nonna, dico, ha perso il marito che aveva 24 anni con 3 figli piccoli nella prima guerra mondiale e ha mandato avanti la famiglia, ha cresciuto i figli, la donna è sempre veramente proprio il ceppo vero, ma io credo che questo sia un po' in tutto il mondo, proprio della famiglia, manca la donna, manca tutto. E questo è il parere, come dire, abbastanza drastico di Virnalisi, ma insomma forse neanche tanto lontano dalla realtà. C'è un film di qualche anno fa che adesso è diventato una serie televisiva di successo, io l'ho trovata una delle più belle commedie fatte in Italia negli ultimi anni, si intitola Non pensarci, il film al cinema era diretto da Gianni Zanasi, poi appunto, come dicevo, è diventata una serie con gli stessi attori, Valerio Mastandrea, Beppe Battistone, Anita Caprioli. Lì c'era un ritorno alla famiglia, dicevamo prima tante volte, anche i personaggi più dirompenti, più di rottura caratterialmente, per attitudini, poi a un certo punto gira vanno a sbattere sempre lì il ritorno, e questa volta era Valerio Mastandrea che dopo aver tentato la strada del rock a Roma tornava in questa famiglia romagnola che fabbrica ciliegie sotto spirito a scontrarsi con questi fratelli che ormai l'avevano un pochino perso di vista e si erano un po' allargati appunto, no, nella loro gestione. Si ride molto, ma anche questo è un ritorno. Non pensarci, di Gianni Zanasi. No. Chi è là? Walter! Mamma! C'è Stefano! Ma tu che ci fai qua? Perché non vai a suonare? Suonare è quello che sai fare. In 2 anni ho ipotecato tutto quanto. Mi ha parlato di fallimento. Domani mattina ci vediamo alle 8 e cerchiamo di capire cosa è successo. Che 8:30, adesso le 8. Sono 3 mesi che non prendo lo stipendio. Ho promesso a Alberto che ancora per 2 settimane non dico niente a vostro padre. Vai, vai, vai! Bene? Sì. Ah, bene. Se avete bisogno potete contare su di me. Ecco, in effetti... Paolo, ci servono 300.000 euro. E questo era Non pensarci di Gianni Zanasi, un film che vi invito a vedere o rivedere perché è molto divertente. Velocissima Anna Maria da Parma, perché siamo quasi in chiusura. Buonasera Anna Maria. Ah, buonasera. Io mi rifaccio a quello che ha detto Virnalisi, perché il mio film a cui ho pensato immediatamente, speriamo che sia femmina. Di Monicelli, certo, assolutamente. Di Woolman, perché questa mamma che è un po' il centro di tutta la famiglia, che riesce a ricostruire e mi sono molto ritrovata in quanto ci sono dei momenti in cui i figli si ribellano un po' a tutto quello che fai eccetera, poi però ci ripensano prima o poi, esatto, tornano all'ovile. Grazie Anna Maria da Parma, siamo davvero in chiusura. 2 sms velocemente. Dani ci dice In mezzo scorre il fiume, film con Robert Redford. Sms ancora, il mio primo babbo cinematografico è Nino Manfredi in il mastro Geppetto di Pinocchio, chi se lo può dimenticare. Andrea da Roma, vi lasciamo con la domanda fatidica. Virnalisi, tra l'Elvira di Buon Natale e Buon Anno, l'Irene del Più bel giorno della mia vita e l'Olga di Vado dove ti porta il cuore, dove c'è più Virnalisi? Ci risponde e noi ci diamo appuntamento domani. Vediamo, Olga di Vado dove ti porta il cuore, dai, questa nonna meravigliosa, sì, poi Buon Natale, Buon Anno, no, Buon Natale, Buon Anno, erano... era molto tenero anche quel film di Comencini, devo dire, non lo so, Virnalisi c'era un po' dappertutto, era un po' tutti e 3 personaggi praticamente messi insieme, una moglie tenera che nel film di Comencini praticamente pur di stare insieme queste due persone di una certa età fanno dei grandi sacrifici, poi si ritirano in quel faro, se non mi ricordo male, no? Perché nelle case dei figli non c'era posto per tenerli, e il film della Comencini, sì, questa nonna, questa mamma, Bella Lisi era un po' tutto.